Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! No, no, ed eccoci qua di nuovo, tutte insieme, buonasera, eccoci qua, dicevo di nuovo all'ascolto di Radio Wombat e di Nervature. Io sono Addu, oggi è lunedì 21 luglio, 21 luglio 2025, ricordiamo, non si sa mai che qualcuno se ne scordi, a volte può succedere, 09, scusate, in questo istante, piccolo ritardo, mi scuserete. Oggi sono qui da sola in regia, ma a differenza quindi delle scorse volte, ma mi accetterete lo stesso così come sono, e anzi faccio quello che avrei dovuto fare scorsa volta. Vabbè, io vi do delle anticipazioni che poi classicamente non riesco mai a rispettare, volente o nolente, proprio è contro la mia natura, devo semplicemente smettere di dare anticipazioni probabilmente. Insomma, comunque il punto è che oggi qui da sola in regia vi farò compagnia e ci faremo compagnia a vicenda, spero, continuando a parlare dell'argomento che avevo iniziato 2 settimane fa, ovvero la patata. Eh sì, avevamo parlato della patata, quella da coltivare si intende. No, non si sa mai. E ovviamente però non iniziamo subito, un po' di musica, con calma, ci risentiamo fra poco. Somebody said I was dangerous. I said something bad, it had to be good. Well, there must be somebody looking, seeing I'm close to it. Maybe I'm getting close to the truth. Must have been good. Somebody said I was dangerous. I must be getting close to the truth. I'm not talking about wishful thinking. Been good. Somebody said close to the truth. All right. About the data, somebody else said it was about the dates. Somebody said, does it really matter? I said yes. I said I want you to show me the proof. I've been asking for the evidence. For now, baby, well over a year. I've been asking for, can I say, evidence. I've been asking it for now, well over a year. Somebody said, give me the data. Somebody said it must have been about dates. Somebody said, look it up on a computer. I said, man, it's a bit too late. Ti chiami. Papa e non patata. Non nascesti castellana. Sei scura come la nostra pelle. Siamo americani, papa. Siamo indios. Profonda e soave sei, polpa pura, purissima, rosa bianca sepolta. Fiorisci là dentro, nella terra, nella tua piovosa terra originaria. Papa, materia dolce, mandorla della terra, onorata sei come una mano che lavora nella terra, familiare sei come una gallina, compatta come un formaggio che la terra produce nelle sue mammelle nutrici. Nemica della fame, in tutte le nazioni si piantò la sua bandiera vittoriosa. Universale delizia, non aspettavi il mio canto, perché sei sorda e cieca e sepolta. Malapena parli dell'inferno, dell'olio, o canti nelle fritture dei porti, vicino alle chitarre, silenziosa, farina della notte sotterranea, tesoro infinito dei popoli. Drifting away, sinking today. The lifeline is out. Don't panic, don't shout. Just lift your thoughts high, and shadow will apply. Strength to cut through. Strength to cut through. Strength. Quindi ritorno un attimino in voce. Avete sentito? Quella di prima era Ode alla patata, Pablo Neruda, 1955. Anche la scorsa volta abbiamo letto una poesia di Pablo Neruda che era invece Ode alle patate fritte. Era un po' più specifica, effettivamente, molto bella anche quella. Questa invece è Ode alla patata, proprio tout court in generale, sempre e comunque, in tutte le salse e in tutti i modi. Allora, quindi, magari prima di partire con questo argomento, ricorderei un attimo i contatti della radio. Siamo Radio Wombat, radio libera autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, su cui trovate tutti i podcast e le trasmissioni. Trovate anche tante altre informazioni belle e interessanti, quindi vi consiglio di andarla a spulciare. Tra le quali informazioni, il link del pad con cui potete chiacchierare con me in diretta, ve lo ricordo comunque anche, che è direttawombat.vado.li. È un foglio di testo condiviso in cui aprite, scrivete, io lo vedo e vi rispondo in diretta o anche non in diretta, è uguale. Ci potete ascoltare nell'area fiorentina anche sulle frequenze 1359 delle AM, mi raccomando provateci e perché no, fateci sapere come va, come si sente, dove si sente, quanto bene, quanto forte. Che dire, quindi sì, appunto, non mi resta che lanciarmi in questa puntata, ma io oggi sono presa così, voglio ancora un po' di musica, spero che apprezziate e quindi andiamo avanti con Judy Mowat. Into my day today. The sun will shine. The high yellow moon won't come out to play. I say, darkness has come up my life and has changed my day. Thank you. Ed eccoci, eccoci, quindi riniziamo a parlare per davvero stavolta di questo argomento, la patata. Allora, facciamo un piccolissimo riassunto della scorsa volta, la quale scorsa volta intendo 2 settimane fa, ovvero quando avevo appunto fatto la prima, diciamo, parte di questa puntata, in cui appunto si parla di patata. Perché ho deciso di parlare di questo? Perché è il periodo adesso in cui si raccolgono e quindi mi è venuto questo estro creativo, diciamo, di preparare una puntata al riguardo. E perché ho potuto attingere da un libro che è La botanica del desiderio, un libro molto interessante che vi consiglio nella sua totalità, di Michel Ponlon. Che è diviso in 4 capitoli, ognuno parla di una pianta diversa dal punto di vista storico e non solo. L'ultimo capitolo è appunto a riguardo della patata e quindi diciamo, fra virgolette, scorsa puntata e questa, vi riporto un po' che cosa dice in questo capitolo, un po' parafrasando, diciamo, riordinandolo con una logica un po' diversa, perché appunto, ripeto, mi era sembrato molto interessante. Quindi, di cosa abbiamo parlato la scorsa volta? Della questione un po' più storica, ovvero le patate, probabilmente lo sapete già tutte e tutti, che vengono dalle Americhe. Noi in Europa non ce l'avevamo, quindi sono state scoperte effettivamente da noi europei molto tardi, portate in Europa e piano piano introdotte nella dieta alimentare. Come abbiamo visto l'altra volta, appunto è stato un piano piano, nel senso che non tutti i paesi europei hanno subito, diciamo, di buon grado inserito la pianta nella dieta, un po' perché all'inizio davvero si credeva che fosse una pianta ornamentale, non, in alcuni paesi, diciamo, si credeva, non si era capito, come anche per i pomodori uguale, la loro funzionalità, diciamo, alimentare, e un po' perché, come appunto abbiamo visto l'altra volta, era una pianta dalla simbologia che non piaceva, perché era una pianta rozza, era una pianta associata alla povertà, a dei popoli, quelli andini, da cui è stata, diciamo, scoperta, trovata, che erano popoli rozzi, grezzi, che non civilizzati, quindi tutte cose non belle, non virtuose e positive. Oltretutto, diciamo, per contribuire a questo immaginario di pianta del povero, c'era anche il fatto che era una pianta troppo semplice da fare, troppo semplice da coltivare, troppo semplice da raccogliere e da mangiare, a differenza invece dell'alimento che era quello principale, diciamo, di sostentamento della popolazione europea, che è il grano, era il grano, il quale, come tutti sappiamo, non si può mangiare così come mamma l'ha fatto, diciamo, dalla pianta, ma necessita tutta una serie di lavorazioni molto complesse. A differenza quindi della patata, che uno la tira fuori dalla terra, la cuoce e la mangia, no? È più semplice, non è il pane, ecco, che serve tutto un processo lungo. Quindi questo ha portato un po' di sfasamento, diciamo, nella coltivazione tra vari paesi, che oltretutto, andandosi anche a sposare con fatti, diciamo, economici, storici del tempo, ha fatto sì che, a maggior ragione nel caso dell'Irlanda, o meglio dell'Inghilterra nei confronti dell'Irlanda, venisse appunto sempre più considerata la pianta dei poveri, la pianta del popolo. Non stiamo di nuovo qui a spiegare tutto il motivo, tutto il perché, semmai andate a risentire la puntata di 2 settimane fa. E poi ecco, per finire, per concludere, andando un po' veloce in questo riassunto, come probabilmente tutte sappiamo, c'è stata poi la Great Famine, quindi la carestia in Irlanda, con disastri clamorosi purtroppo, dovuta al fatto che era stata importata una varietà di patata, era coltivata solo quella e quindi se n'è ammalata una, si sono ammalate tutte. E quindi la fonte di sostentamento degli irlandesi è venuta a mancare praticamente tutta all'improvviso. Quindi questo fatto molto importante. E nonostante tutte queste vicissitudini, comunque, come sappiamo, la patata poi si è iniziato a coltivarla in tutta l'Europa. E anche di buon gusto e di buon grado. E vabbè, e oggi sappiamo tutti che è coltivata ovunque. Ecco, quindi questo era per fare un veramente riassunto fatto male, ok? Quello che di cui invece volevo parlare oggi è la patata oggi, appunto, nel senso proprio di come viene coltivata, cosa ci si fa, quali, con diciamo dei focus specifici, anche quali piante, tipologie, varietà, quindi di patate, sono coltivate oggi. Allora, magari metto un po' di sottofondo musicale perché direi che non fa male. Perché no? Perché no? Continuiamo con la nostra Judy Mowat. Continuo a leggerla Wombat, però è scritto Mowat in realtà. Però Judy Wombat sarebbe stato bello. Ok, eccolo qui il sottofondo. Allora, per iniziare a parlare quindi di questo, di come la patata è coltivata oggi, intendo oggi nel XXI secolo, perché questo libro è stato scritto all'inizio degli anni 2000, quindi non è mega recente, diciamo, però insomma parla di monocultura e i metodi più o meno sono rimasti quelli. Ecco, quindi per iniziare a parlare di questo, magari vi spiego un attimo, diciamo, il percorso narrativo che ha questo capitolo. Praticamente lo scrittore, che è Michel Pollan, è un giornalista che spesso tratta di temi ambientali e a un certo punto della sua vita si è messo in testa, nel suo orto, di coltivare una nuova varietà di patate, che è una varietà OGM, che si chiama New Leaf, che è una varietà che è resistente, insomma, a un patogeno, e questo favorisce tutta la coltivazione. Nel farlo, però, essendo giornalista, essendo che si interessa a questi temi, ha voluto anche indagare di più, quindi non gli è bastato coltivarla nel proprio orto, anche perché no, non era certo quello un considerabile un esperimento scientifico, ovviamente non aveva i requisiti per, e quindi ecco inizia a fare un po' di ricerche, un po' di inchieste, e addirittura riesce ad andare a parlare con i tipi della Monsanto, ovvero coloro che tramite i loro laboratori, insomma, hanno creato oggettivamente la New Leaf, quindi questa varietà OGM. Quindi va da loro, ci chiacchiera, si fa spiegare come fanno questo processo, quindi sempre lui molto molto neutro, almeno sembrerebbe dal libro, nei confronti appunto di queste tecnologie. Oltre a questo, poi vuole anche andare a parlare con chi la coltiva e chi coltiva patate invece di altre varietà, non OGM, patate normali. E quindi si imbatte in un coltivatore, no, più di uno forse ora, scusate, non mi ricordo, comunque coltivatori di intensivo. Quindi queste enormi monoculture, in tutto ciò siamo in America, scusate non l'ho detto. Però ecco, forse riusciamo a immaginare un po' le coltivazioni a monocultura specificatamente americane, quindi queste enormi distese di centinaia proprio di ettari a monocultura, quindi qualcosa di veramente inquietante. Ora lo vedremo meglio fra un attimo di quale inquietudine stiamo parlando. Dopodiché va anche a visitare un coltivatore sempre nella zona, ma che coltiva in modo biologico e quindi tutto un altro tipo di coltivazione, ma proprio veramente distante, anni luce. Eppure non che sia agricoltura rigenerativa, naturale, no, cioè è solo, fra virgolette, solo biologica, nel senso che si attiene a delle certificazioni, quindi degli obblighi, eppure c'è già una differenza abissale rispetto a chi invece fa monocultura. Un po' alla fine, un po' durante tutto questo racconto, il motivo per cui ho trovato interessante questo capitolo, questo appunto racconto, è che elabora una serie di riflessioni, anche molto interessanti alcune, riguardo al discorso dei brevetti, al perché la Monsanto o chi per lei, insomma, perché vengono fatti i brevetti in agricoltura, che cosa questo comporta, e facendo anche delle riflessioni un po' economiche, molto accennate, devo dire, non scende nei particolari di questo, però ecco, una serie di riflessioni su questo e anche su ovviamente la parte di coltivazione. Quindi ecco, vi leggo un passaggio del libro nel quale racconta come vengono coltivate le patate in monocultura, proprio nell'ambito in cui, appunto, come vi dicevo, il protagonista della nostra storia vabbè, è andato a visitare, a far visita, insomma, e a conoscere questo coltivatore di intensivo di patata in America, ripeto, e quindi questa è un po' la spiegazione di come funziona la coltivazione durante l'anno. Chiesi a Forsyth di illustrarmi il regime stagionale di interventi e i sistemi all'avanguardia per il controllo di un campo di patate. Di solito si incomincia all'inizio della primavera con un trattamento per il terreno per controllare i nematodi e altre patologie. I coltivatori spargono i campi prima della semina con un composto chimico tossico al punto da uccidere ogni traccia di microrganismi nel suolo. Dopodiché Forsyth innaffia i campi con un erbicida, il Lexan oppure il Sencor oppure Eptam, per ripulire, fra virgolette, il terreno dalle erbacce. Al momento della semina viene applicato sul terreno un insetticida sistemico, come per esempio il Thimet, che verrà assorbito dalle giovani piante e ucciderà ogni insetto che ne mangi le foglie per diverse settimane. Quando le pianticelle saranno alte una quindicina di centimetri, viene spruzzato sui campi un secondo erbicida per controllare lo sviluppo delle erbacce. Veramente impressionante, io mi è la pelle d'oca a leggerlo. Bene, insieme alla razione d'acqua, le patate di Forsyth ricevono 10 annaffiature settimanali di fertilizzanti chimici. Appena prima che i filari si chiudano, cioè prima che le foglie di una pianta incontrino quelle delle piante vicine, Forsyth inizia a spruzzare un fungicida che si chiama Bravo, per controllare la ruggine tardiva della peronospora, lo stesso fungo, tra l'altro, che causò la carestia di patate in Irlanda e che è ancora oggi la minaccia che più preoccupa gli agricoltori. Continuando, quindi, all'inizio di luglio Forsyth affitterà un polverizzatore per i trattamenti contro gli afidi da eseguire a intervalli di 14 giorni. Di per sé gli afidi sono innocui, ma trasmettono un virus che provoca l'accartocciamento fogliare e quindi va trattato anche per quello. Gli agricoltori come Forsyth devono irrorare i campi con alcuni fra i composti chimici più tossici e attualmente in uso, compreso un organo fosfato che si chiama Monitor. Il Monitor è velenosissimo, mi spiegò Forsyth. Infatti è risaputo che può danneggiare il sistema nervoso umano. Dopo che l'ho spruzzato, infatti, non vado nei campi per almeno 4 o 5 giorni. Cioè, rendiamoci conto, nemmeno per aggiustare un irrigatore rotto. Questo è un po' la questione. Quindi, come abbiamo capito, probabilmente non ci immaginiamo nemmeno proprio lontanamente quanto gli ortaggi che compriamo vengono trattati. Ora, non facciamo di tutta l'erba un fascio, nel senso che si sta parlando degli anni, primi anni 2000, dell'America, di uno dei maggiori, insomma, un coltivatore molto molto grosso. Magari da noi è diverso, magari non sono tutti così le patate che ci mangiamo tutti i giorni, non voglio fare terrorismo psicologico. Però, ecco, diciamo, almeno una volta nella vita queste cose vanno lette, ecco, e bisogna rifletterci almeno una volta. Continua poi il capitolo in modo molto interessante, perché poi appunto viene riportato questo dialogo in cui questo tale Forsyth, questo coltivatore, dice: io preferisco mangiare cibo biologico e infatti a casa coltivo parecchie cose. Le verdure che compriamo al mercato dobbiamo lavarle un sacco di volte. Non so se dovrei dirlo, ma pianto sempre un campetto di patate in cui non uso la chimica. Alla fine della stagione le patate del mio campo sono buone da mangiare, ma quelle della piantagione probabilmente sono ancora piene di sistemici. Io non me le mangio. Ecco, quindi un attimino per capire che anche, cioè, a parte appunto l'inquietudine che viene a leggere queste parole, ma a me mi ha stupito veramente tanto vedere che, ok, quindi non è che lo fai, non è che coltiva così perché ci crede, perché gli sembra l'unico metodo o il metodo davvero giusto da usare, ma perché fa fare più soldi fondamentalmente. Cioè, la ragione è quella di base, la ragione è che è più conveniente, cioè c'è della convenienza a fare questo. Non per la salute, non per il gusto, quindi è abbastanza impressionante appunto. Ah, sentiamoci un attimo un altro pezzo, cambiamo, forse rimaniamo sempre nel reggae, però cambiamo artista e ci risentiamo fra poco. I've got dreams to remember. I've got dreams to remember. On this holiday last night, another man arms holding his tight. Nobody knows how I'm feeling sad. All I know, I walked away and cried. I've got dreams. Don't fool me. Why did he hold you so tenderly? know you say he was just a friend, but I saw him kiss you again and again and again. These are the men, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Eccoci, torniamo qua in voce. Mi raccomando, se volete parlare con me, diretta wombat.vado.li è il link per accedere al pad. Continuiamo quindi con la nostra storia. Allora, quindi, come vi dicevo, il giornalista, nostro protagonista, ha iniziato tutta questa ricerca sulle patate, su come si coltivano, eccetera, eccetera, perché aveva iniziato a coltivare una varietà OGM nel suo piccolo orticello, proprio una roba molto casalinga. Varietà OGM, quindi entriamo un attimo in quest'ambito. Si chiama New Leaf, nuova foglia, diciamo, e perché doveva essere così strabiliante? Perché le foglie, no scusate, non solo le foglie, tutta la pianta, ogni singola cellula di tutte le parti della pianta, grazie all'inserimento di un gene in un punto specifico del DNA, ora lo vediamo, riesce a produrre autonomamente la pianta una tossina batterica che è quella la stessa del Bacillus thuringiensis, che è un batterio che viene usato in coltivazione, di solito coltivazione, come si dice, biologica, contro una serie di problematiche che sono di solito larve, a cui piace tanto, tanto, tanto cibarsi delle foglie, soprattutto quelle tenere, nuove, belle, delle piante. E infatti si usa contro la dorifora, che è un parassita per le piante di patata molto molto problematico, tutt'oggi è molto problematico, e di solito cosa si fa in agricoltura biologica, ma anche non, perché è un metodo che funziona molto molto bene di lotta biologica, si prende questo Bacillus thuringiensis, appunto questo batterio, si scioglie in acqua perché viene fornito, venduto in polvere in una certa concentrazione ovviamente, e si spruzza sulla pianta. Poi la larva arriva, mangia quella cosa lì o una parte della pianta con il batterio sopra o direttamente il batterio, e poi è futù, diciamo, perché poi viene disintegrata, poverina, da dentro, proprio dal batterio stesso. Quindi, cosa è l'OGM New Leaf creato dalla Monsanto? È una pianta che da sola si produce dal proprio interno questa tossina batterica e quindi fondamentalmente, in soldoni, è resistente alla dorifora. Una rivoluzione incredibile nell'agricoltura, perché appunto la dorifora è veramente una piaga, insomma comunque è un problema importante, diciamo. E quindi ecco, poteva essere un po' una svolta, una risoluzione. Mi interessava leggervi adesso un passaggio un po' più lungo adesso, nel quale appunto viene raccontato la visita che questo giornalista fa all'interno della Monsanto, proprio dei laboratori della Monsanto, con degli scienziati della Monsanto che gli spiegano come creano questi OGM, proprio fisicamente, come li fanno, come li creano. Dave Stark, uno degli scienziati che lavorarono alle prime patate, quindi la prima patata OGM, mi accompagnò nelle camere sterili dove questi tuberi vengono modificati geneticamente. Mi spiegò che ci sono due modi per inserire geni estranei in una pianta. Infettarla con un agrobatterio, ovvero un agente patogeno il cui modus operandi è quello di farsi strada nel nucleo delle cellule della pianta e sostituirne il DNA con parte del proprio, oppure l'altro metodo, spararle con una pistola genetica. Per ragioni non ancora molto chiare, il primo sistema sembra funzionare meglio sulle latifoglie, come infatti è la patata, mentre il secondo viene impiegato con le graminacee, come il mais o il frumento. La pistola genetica è uno strumento tecnologico singolare, allo stesso tempo sofisticato e grezzo, ma deve essere ben chiaro che non si tratta di una metafora. Per sparare proiettili di acciaio inossidabile, prima immersi in una soluzione di DNA nello stelo o in una foglia della pianta prescelta, viene utilizzato un calibro 22. Se va tutto bene, parte del DNA perfora la parete del nucleo di qualche cellula e si fa strada nella doppia elica. Quindi la doppia elica del DNA, si intende. Un'irruzione prepotente in una danza armoniosa. Se il nuovo DNA arriva nel posto giusto, ma nessuno sa quale sia questo posto giusto, dove si trovi questo posto, la pianta cresciuta da quella cellula esprimerà il nuovo gene. Tutto qui? Ma tutto qui. A parte il sistema d'accesso leggermente più allegro, l'agrobatterio agisce nello stesso modo. Nelle camere sterili, dove la pressione dell'aria viene mantenuta artificialmente alta per impedire contaminazioni da altri microbi, i tecnici siedono al banco di laboratorio davanti alle capsule di Petri, in cui sezioni grandi come un dito di steli di pianta, di patata, sono immersi in un terreno di coltura. qui viene aggiunta una soluzione di agrobatteri che hanno già i geni della Monsanto. Qui viene aggiunta una soluzione di agrobatteri che hanno già i geni che la Monsanto intende inserire. Quindi per tagliare e cucire sequenze precise di DNA si usano enzimi particolari. Oltre al gene del Bacillus thuringiensis, viene immesso anche un gene marcatore, si dice, che di solito è resistente a un dato antibiotico. In questo modo i tecnici possono poi aggiungere l'antibiotico per verificare quali cellule abbiano ricevuto il nuovo DNA. Semplicemente tutte quelle che non sono morte. Il gene marcatore fornisce anche una sorta di impronta digitale del DNA, che permette alla Monsanto di identificare le proprie piante e i loro discendenti anche molto tempo dopo che hanno lasciato il laboratorio. Eseguendo un semplice test su ogni foglia di patata nel mio giardino, un agente della Monsanto è in grado di dimostrare se essa è proprietà intellettuale della società. Tra le altre cose, ho capito che l'ingegneria genetica è anche un metodo efficace per trasformare le piante in proprietà privata, fornendo a ognuna di esse una sorta di codice a barre. Dopo diverse ore, le strisce di stelo di patata sopravvissute iniziano a mettere radici. Passato poi qualche giorno, le piantine sono trasferite al piano superiore, nella serra sul tetto. Qui incontrai Glenda Debrecht, una cordiale orticoltrice dello staff che mi invitò a indossare guanti di lattice e ad aiutarla a trapiantare le piantine dalle capsule di Petri a piccoli vasi riempiti di terriccio specifico. Dopo l'astrazione del laboratorio mi sentivo di nuovo su un terreno quasi familiare, in una serra a occuparmi di piante vere. Mentre lavoravamo su un carrello pieno di vasi, Glenda mi spiegò che questa operazione, dalle capsule di Petri al trapianto in serra, viene effettuata migliaia di volte, soprattutto perché non ci sono certezze sull'esito, anche dopo che il DNA è stato accettato. Se per esempio il DNA va a finire nel posto sbagliato del genoma, il nuovo gene non si esprimerà, oppure si esprimerà in modo insufficiente. In natura, cioè nella riproduzione sessuale, i geni non si trasmettono uno a uno, ma insieme a geni loro associati, che ne regolano poi l'espressione, attivandoli oppure disattivandoli. Inoltre, il trasferimento di materiale genetico è molto più sistematico per via sessuale, perché il processo assicura che ogni gene finisca nel posto giusto e non ostacoli altri geni alterandone inavvertitamente la funzione. Instabilità genetica, questo è il termine utilizzato per descrivere i vari effetti inattesi che geni estranei collocati nel posto sbagliato oppure non regolati possono causare nel nuovo ambiente. Questi variano dai più sottili e impercettibili. Per esempio una proteina particolare espressa poco o troppo nella nuova pianta, a quelli invece palesemente bizzarri. A Glenda infatti capita di vedere un sacco di patate mutate, quindi appunto con effetti un po' inattesi. Stark mi spiegò che il nuovo gene attecchisce ovunque tra il 10 e il 90% delle volte, una statistica che lascia un pochino perplessi. Per cause ancora ignote, mi chiedo instabilità genetica, il processo produce una grande variabilità, anche se inizia con un'unica varietà di patata clonata e conosciuta. Lasciamo crescere migliaia di piante differenti, mi disse Glenda, e poi cerchiamo la migliore. Spesso il risultato è una patata la cui superiorità non è spiegabile con la presenza del nuovo gene. Forse è per questo che le mie New Leaf sono tanto vigorose. Rimasi impressionato dall'incertezza di tutto questo processo, da come fosse al contempo una tecnologia straordinariamente sofisticata e una sorta di salto nel buio della genetica. Si prova a buttare una manciata di DNA contro il muro e si vede se rimane attaccato. se si continua per un numero sufficiente di volte, alla fine sarà inevitabile trovare ciò che si cerca. Trapiantando patate con Glenda, capii che era impossibile stabilire una volta per tutte se quella tecnologia fosse intrinsecamente valida o pericolosa. Perché ogni nuova pianta geneticamente modificata è un evento unico in natura, che porta con sé il proprio bagaglio di varianti genetiche. Ciò significa che l'affidabilità o la sicurezza di una pianta geneticamente modificata non garantisce l'affidabilità e la sicurezza della successiva. Ci sono ancora molte cose che non comprendiamo riguardo all'espressione genetica, ammise Stark. Non conosciamo numerosi fattori, tra cui l'ambiente, l'influenza climatica e fino a che punto un gene farà quello che ci si aspetta. In uno dei primi esperimenti, gli scienziati riuscirono a inserire il gene del colore rosso nelle petunie. Andò tutto come previsto, fino a quando la temperatura non raggiunse i 32 gradi e le petunie rosse di un'intera piantagione improvvisamente e inspiegabilmente diventarono bianche. Episodi come questo, giullari dionisiaci che spuntano negli ordinati campi apollinei, riescono a sconcertare almeno un po' la fede, forse, di questo determinismo genetico. Di certo non è semplice come installare un nuovo software in un computer. I wanna tell you, baby, the changes I've been going through. Missing you, oh, till you come back to me. I don't know what I'm gonna do. No. and oh so far away. I fell in love with you. Before the second show, and your guitar, and you sound so sweet and clear, but you're not really here. It's just the radio. Allora, vorrei concludere questa puntata leggendo altri due passaggini di questo libro, nel quale ce ne sarebbe anche altri, però è così, giusto per darvi un'idea appunto di un po' del libro. Poi magari appunto lo andate a leggere, questo capitolo, ma anche tutto il libro, come dicevo, molto interessante. Quindi vorrei leggere due passaggi riguardo alle problematiche che gli OGM possono portare. Prima però una premessa: qui stiamo parlando di OGM veri, nudi e crudi, diciamo. Oggi in realtà ci sono altre tecniche, cioè si sono aggiunte altre tecniche di ingegneria genetica che, siccome sono un po' diverse dagli OGM, non vengono più chiamati tali, vengono chiamati TEA, tecnologie di evoluzione assistita. Però vabbè, il nome è importante fino a un certo punto, cioè sempre di ingegneria genetica stiamo parlando, che funzionano diverse. Quindi abbiamo appena letto la spiegazione di come, per esempio, facevano queste New Leaf. Ecco, nel caso delle nuove TEA è diverso, funziona in un altro modo, effettivamente più sofisticato dal punto di vista proprio del laboratorio, cioè non è che viene sparato DNA con un proiettile e chissà dove si infila, noi non lo sappiamo, ma sappiamo dove si infila, sappiamo quale molecole possono essere usate per arrivare esattamente in quel punto specifico dell'elica, della doppia elica del DNA, quindi è più precisa quella parte di metodo lì. Dopodiché però il dopo comunque non si sa, cioè comunque quello che esce dai laboratori è una pianta geneticamente modificata che non sappiamo davvero come può reagire in natura. È una pianta che conosciamo meglio, questo oggettivamente è vero, rispetto a un altro GM magari, perché sappiamo di preciso cosa abbiamo modificato. Dopodiché le conseguenze che questa può portare all'interno di un ecosistema non ne abbiamo idea. Ecco, questo era un po', diciamo, per chiarezza, mi sembrava giusto precisarlo. Allora, quindi dicevamo, quindi abbiamo precisato che adesso stiamo parlando di OGM, quindi dei vecchi, fra virgolette, OGM, ma ecco, stiamo parlando in realtà di problematiche che questi possono avere o hanno anche avuto proprio nella pratica in natura, quindi ecco, vale un po' bene forse anche per i nuovi TEA. Allora, domanda: che cosa potrebbe accadere ai geni di Bacillus thuringiensis presenti nel polline che le api trasportano di fiore in fiore nel mio giardino? Quindi il polline di quelle piante lì di patata geneticamente modificate New Leaf, il quale polline contiene, come dice appunto, queste tossine biologiche. Il polline, come ogni polline, viene trasportato a giro da farfalle, impollinatori vari. Cosa succede poi dopo? Allora, no, scusatemi, c'avevo un guasto tecnico al tappetino. Eccolo lì che arriva, va bene, tutto bene. Quindi, attraverso l'impollinazione incrociata, questi geni possono finire in altre piante, magari apportando un nuovo vantaggio evolutivo a una determinata specie. Numerose specie domestiche stentano a sopravvivere in natura. I caratteri per i quali le abbiamo ibridate, per esempio i frutti che maturano tutti insieme o altre caratteristiche estetiche, spesso le rendono meno adatte a vivere dove l'uomo non interviene. Ma le piante biotecnologiche sono state dotate di caratteri, come la resistenza a un insetto oppure a un pesticida, che invece le rendono più adatte alla vita selvatica. Io non sono particolarmente d'accordo con questa affermazione, però è comunque un ragionamento logico, andiamo avanti. Il flusso genetico solitamente si verifica solo tra specie strettamente imparentate. E poiché la patata si è evoluta in Sud America, l'eventualità che i miei geni di Bacillus thuringiensis fuggano nelle aree incolte del Connecticut per generare una sorta di super infestante è abbastanza remota. Questa è la posizione della Monsanto e non c'è ragione di dubitarne. Ma è comunque interessante notare che mentre la forza dell'ingegneria genetica dipende dalla capacità di abbattere le barriere genetiche tra specie e tipi per trasferire liberamente i geni, la sicurezza ambientale di questa stessa tecnologia si fonda su un fenomeno antitetico, ovvero l'integrità delle specie naturali e la loro tendenza al rigetto di materiale genetico estraneo. Scusate, faccio un piccolo inciso, perché forse non è chiaro a tutte l'ascolto. Quello che si è in grado di fare con gli OGM e soprattutto con i nuovi TEA, aggiungo io, quindi questi più recenti, questi nuovi OGM, è che si può prendere dei geni da una specie X e metterli in una specie Y, dove X e Y sono distanti, ma proprio anni luce, anni luce. E quindi addirittura con i nuovi OGM, i TEA, è possibile farlo tra regni diversi, quindi da invece tra pianta pianta, tra pianta animale o tra pianta e fungo, che è una cosa veramente incredibile perché di solito non c'è compatibilità appunto genetica, e invece siamo riusciti a storpiare talmente tanto in un certo senso la natura che riusciamo a farci incastrare queste cose. Questo era un pochino per chiarire. Quindi continuo. Ma che cosa succederà se gli agricoltori peruviani coltivano patate al Bacillus thuringiensis? Oppure se piantassi una coltura biotecnologica imparentata con altre specie che crescono attorno? Gli scienziati hanno già dimostrato che il gene Roundup Ready, che è quello del diserbante, in una sola generazione può migrare da un campo di colza a una parente selvatica della famiglia della mostarda, che poi diviene resistente appunto agli erbicidi. Lo stesso è accaduto con le barbabietole geneticamente modificate. In realtà non è stata una grande sorpresa. La vera sorpresa, però, è stato scoprire in un esperimento che i geni modificati migrano con più facilità di quelli comuni. Nessuno sa perché, ma questi geni potrebbero dimostrarsi particolarmente mobili. La mobilità dei geni e le superpiante mettono in luce un nuovo problema ambientale, ovvero l'inquinamento biologico, che alcuni ambientalisti ritengono sarà la funesta eredità di uno slittamento dell'agricoltura dal paradigma chimico a quello biologico. Per quanto pericoloso sia l'inquinamento chimico, alla fine esso si disperde e si dissolve, mentre l'inquinamento biologico si autoriproduce. Si pensi alla differenza tra una fuoriuscita di petrolio e una malattia infettiva. Una volta che il transgene introduce nell'ambiente una nuova pianta o un parassita resistente, esso non potrà essere eliminato del tutto. Sarà già divenuto parte della natura. Sitting on the fence, fighting back is the new normal. Gotta take a tip from the French. Fighting back, absolutely essential. You gotta stop sitting on the fence. You gotta stop sitting on the fence. You gotta stop. Sitting on the fence. You got to stop sitting on the fence. Ecco, quindi abbiamo visto un esempio un po' così puntuale, ma ce ne sono tanti di problemi che gli OGM possono dare poi in natura. Adesso ne vediamo un attimo un altro, quindi un altro su cui sicuramente abbiamo già sentito parlare, probabilmente abbiamo già sentito parlare, ovvero il fatto che le piante OGM spesso sono anche sterili. Questo a volte perché lo diventano da sole, cioè senza che noi si sia ricercato questa caratteristica, a volte invece viene proprio ricercata. It's just more. It's just more. Fodder for the masses. Fodder for the masses. Fodder for the masses. Nel marzo 1998 al Dipartimento dell'Agricoltura americano e a una società che produce sementi di cotone, la Delata and Pine Land, fu rilasciato il brevetto numero 572-3765, che descrive un nuovo metodo per il controllo dell'espressione genetica della pianta. Il linguaggio neutro del brevetto nasconde una tecnologia genetica radicalmente nuova. Introdotto in qualsiasi pianta, il gene in questione ne rende sterili i semi, inibendone la funzione primaria. Con questa nuova tecnica, ben presto divenuta nota come Terminator, gli ingegneri genetici avevano scoperto come bloccare a comando il processo naturale più elementare, il ciclo pianta-seme-pianta-seme, grazie al quale i vegetali si riproducono e si evolvono. L'antica logica del seme, quella di moltiplicarsi liberamente, servire da cibo e da mezzo per produrre altro cibo, dava la precedenza alla moderna logica del capitalismo. Ora i semi vitali non sarebbero più provenuti dalle piante, ma dalle multinazionali. Con il gene Terminator, le aziende che producono sementi possono imporre i propri brevetti a livello biologico e a tempo indeterminato. Una volta che questi geni saranno largamente diffusi, il controllo sulla genetica delle nostre colture e sul percorso della loro evoluzione completerà il suo tragitto dal campo del coltivatore all'azienda delle sementi, a cui gli agricoltori di tutto il mondo dovranno per forza tornare ogni anno. Il gene Terminator permette a compagnie come la Monsanto di catturare uno degli ultimi patrimoni comuni esistenti in natura, la genetica delle piante che la civiltà umana ha ottimizzato in oltre 10.000 anni di storia. Submit, get you to quit. If you don't follow all the rules like a fool. More, it's just more fighting for the masters. It's just more. It's just more fighting for the masters. E allora, ci sarebbe altro da dire, ci sarebbe altro da citare, da leggere, di cui ragionare insieme, però sono già le 8:30, direi che il mio l'ho fatto, nel senso che il mio obiettivo in questa puntata era svegliarvi un po' di... darvi un po' di... mettervi un po' di curiosità nel leggere per intero questo capitolo, perché appunto le riflessioni che fa sono svariate, sono anche dislocate, diciamo, nel racconto. Quindi sono piuttosto interessanti, soprattutto quelle appunto dal punto di vista un po' economico, diciamo, comunque del sistema, ecco, di fornitura di cibo capitalistico, ovviamente, che abbiamo oggi. E, che dire, quindi il libro è La botanica del desiderio, Michel Pollan. Ve lo consiglio, appunto, e siamo quindi arrivate con appunto le 8:33 alla fine di questa puntata. Spero vi sia interessato e con nervosure direi che ci risentiamo allora settimana prossima. Avevo pensato di leggervi una o due ricettine alla fine, ma direi che non c'è bisogno, dai, tanto Siamo già arrivati appunto alle 8:30, non vorrei poi che risultasse troppo lunga questa puntata e poi ecco, dai, sappiamo come cucinare le patate, via, dai, lo sappiamo tutte e tutti. Quello che però spero che anche vi venga curiosità di fare è magari provare a raccoglierle o in generale a coltivarle, perché è veramente soddisfacente spesso. Quindi... Non mi resta che salutarvi, magari con un ultimo brano, e direi di continuare sulla scia su cui già eravamo, quindi quella di Van Morrison. E sì, oggi la scaletta musicale è stata un po' così di palo in frasca in alcuni momenti, ma vabbè, ogni tanto va bene così. E quindi allora vi auguro una buonissima serata, ci risentiamo lunedì prossimo, sempre qui con me su Nervature. Stavo per fare un'anticipazione, non la farò visto che porta male a quanto pare, sto zitta, ci risentiamo però sicuramente settimana prossima, ecco, sicuramente, vedete, l'ho comunque fatta l'anticipazione e vabbè, ci proviamo comunque, dai, lunedì alle 19 Radio Wombat, Nervature, ciao ciao, buona serata. How do you handle the news? Do you still think the government's not lying to you? Oh, has the penny dropped yet? Seems there's no way out of this impasse. Is it something we'll live to regret? Sometimes every knock is a boost. Sometimes life gets tedious, don't it? Sometimes chickens come home to roost. Sometimes it's just too ridiculous. Sometimes it's mind-controlled amnesia. Sometimes it's memories you treasure. Sometimes it's joy you're not allowed to share. Sometimes it's no ongoing pleasure. Tell you it's about the weather. Sometimes it's mind-controlled amnesia. Sometimes it's memories you treasure. Sometimes it's joy that you can no longer share. Sometimes they say you can't have any pleasure. About the weather. Sometimes didn't reckon on these restrictions. Are we allowed it to come to pass? Sometimes it's just so ridiculous.